Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, bentrovati. Oggi affrontiamo il tema delle imprese e dell'economia reale da un'angolazione un po' diversa da quella che abbiamo utilizzato fino ad ora, cioè l'angolazione della finanza. Abbiamo come ospite Enrico Marchi, che è da una vita presidente di Finint, che è la maggiore merchant bank del Nord-Est, e da poco presidente della neonata banca Finint, che ci parlerà di come alimentare le imprese e di come soprattutto sta funzionando la finanza delle imprese del Nord-Est, che sono quasi tutte manifatturiere. Lì ci sono distretti che sono secondi solo a quelli tedeschi, come il distretto di Vicenza e i distretti di Treviso, che sono anche insieme a Monza le prime tre province industriali d'Italia. Buongiorno dottor Marchi. Buongiorno a lei. Allora, io so che una delle sue idee è che fra poco le imprese dell'economia reale avranno una domanda di credito e soprattutto di liquidità per alimentare lo sviluppo, perché voi vi aspettate che la crescita economica ricominci e che quindi ci sia bisogno di scale, come si dice in Veneto. Sì, in effetti è già ricominciata, è una crescita ancora molto debole, però quello che abbiamo notato, anche che in base alle indagini di Banca d'Italia, che la continua flessione nella concessione dei prestiti si è fermata. Da dicembre ad oggi, anzi, si sono ripresi a salire sia la concessione dei prestiti sia la domanda dei prestiti, e questo ci fa ben sperare per una ripresa anche complessiva dell'economia. Ecco, ma le imprese manifatturiere dei distretti hanno bisogno quindi di soldi? Direi di sì. Innanzitutto credo che nel medio termine ci sarà bisogno di un livello di patrimonializzazione forse un po' più elevato di quello attuale, perché oggi il livello dell'equity rappresenta più o meno il 15% del totale dei finanziamenti. Poi un'economia che cresce ha bisogno di finanziare la crescita, si tratta di finanziarla in modo equilibrato per quanto riguarda le varie fonti. Allora, per esempio, un tema che riguarda l'Italia è l'eccessivo indebitamento nei confronti del sistema bancario. Certo. Sì, ecco, le banche, le aziende oggi utilizzano poco rispetto agli altri paesi europei le altre fonti di finanziamento. Ancora tre quarti delle fonti di finanziamento delle imprese sono debiti bancari. Ci sono tanti strumenti che possono essere... Ecco, io vedo che voi avete supportato nell'emissione di mini bond già una ventina di aziende, che sono quasi tutte, sto qui vedendo l'elenco, aziende dell'economia reale. Ma non costano un po' troppo sti mini bond? Arriviamo tra una cosa e l'altra quasi al 10%. No, non arriviamo a questi importi, a queste cifre, però sicuramente sono più care rispetto al credito a breve termine. Però pensiamo che una struttura equilibrata di finanziamento dell'impresa ha bisogno tanto del finanziamento del circolante, che deve essere fatto quindi a breve termine, tanto per quanto riguarda gli investimenti fissi del medio termine. E io credo che i mini bond siano una fonte di finanziamento destinata a crescere e molto utile, perché oltretutto abituano l'impresa che li emette a una disciplina che è sicuramente interessante e le prepara per una crescita che poi può arrivare al mercato dei capitali e la quotazione in borsa, nel senso che un'impresa che emette mini bond deve avere un adeguato sistema di controllo di gestione, deve avere un sistema delle fonti di finanziamento equilibrato, e quindi questo credo che sia una cosa interessante. Va accompagnato sicuramente con altri strumenti che costano meno e però sono di breve termine, penso per esempio, oltre al credito tradizionale, alle cambiali finanziarie, uno strumento che, sposato con i mini bond, rende una struttura finanziaria di un'azienda equilibrata. Ecco, voi avete fatto un'operazione originale che si potrebbe riprodurre anche per i distretti. Una sorta di project bond, che sono quelli che ha pensato il neopresidente della Commissione europea Juncker, per sostenere le imprese anche piccole. E avete fatto questo esperimento con Viveracqua Hydrobond, che finanzia investimenti per circa 300 milioni di euro, con un meccanismo complesso ma efficace di cartolarizzazione di mini bond. Parliamo di 300 milioni di euro e soprattutto di 11 società messe insieme. Quindi si potrebbero prendere 40 aziende di un unico distretto e fare un finanziamento in blocco. Una cosa molto interessante per i nostri ascoltatori. Ce la vuole spiegare? Sì, è stata la prima operazione ed è un'operazione che ha avuto molto successo e che viene citata oggi anche dalla Banca Europea degli Investimenti, per esempio, che ha contribuito al risultato. E, di fatto si sono messe insieme tutte queste aziende operanti nel settore dell'acqua, ognuna di queste ha emesso un mini bond che è stato sottoscritto da un veicolo finanziario che poi si è finanziato attraverso la cartolarizzazione, di cui noi siamo uno dei primi operatori in Italia. Questo ha permesso da un lato di emettere anche prestiti, se non di importo notevole singolarmente, ma messi insieme tutti quanti hanno fatto sì che ci fosse un importo adeguato per un'operazione, diciamo così, sofisticata. Questo ha permesso alle aziende di finanziarsi a delle condizioni sicuramente migliorative di quelle che sarebbero state le emissioni, le condizioni per un'emissione singola di ogni singola azienda. A fronte poi dell'operazione nel suo complesso, abbiamo, dato che era un'operazione che riguardava in questo caso tutte aziende di distribuzione dell'acqua, una parte di garanzia di Veneto Sviluppo, ed è una cosa questa che uno schema che si potrebbe riproporre, appunto, come diceva lei, nei distretti industriali, dove si potrebbero mettere assieme tante piccole o medie aziende, fare un'emissione unica che potrebbe essere per una parte garantita o da Veneto Sviluppo o per esempio dai Confidi. Questo sarebbe un ottimo strumento per coinvolgere i Confidi, dare una parte di garanzia a queste operazioni e mettere tutto insieme, di modo che si ammortizza su un importo più grande i costi di strutturazione di questo, e le imprese possono beneficiare di una fonte a medio termine a condizioni sicuramente interessanti. Ecco, sembra interessante anche a me, se non fosse per l'individualismo degli imprenditori, che nel nord-est è anche più importante che altrove e in genere sono tutti protagonisti, li vedo un po' riottosi a mettersi insieme ad altri. Sicuramente noi siamo abituati a essere pionieri in tante situazioni. Questa è stata un'operazione pionieristica che però è guardata con molta attenzione, come dicevo, dalla stessa Banca Europea degli Investimenti, che ha sottoscritto una buona parte dei bond che vengono emessi, quindi che lo sforzo ne vale la candela. Dopodiché, se non si vuole arrivare a operazioni sofisticate, a mettere insieme i distretti, che sono d'accordo con lei, non è un'impresa semplice mettere insieme... Più per questioni psicologiche che non per questioni reali. Sì, certo, bisogna condividere dati, eccetera. Comunque ritengo che il tema dei mini bond sia un tema molto interessante. Noi siamo forse il primo operatore oggi nei mini bond in Italia, abbiamo già investito, come diceva lei, in una serie di aziende industriali oltre 50 milioni e con il fondo strategico Trentino Alto Adige, in Trentino Alto Adige che gestiamo sempre anche noi, una trentina di milioni, quindi abbiamo investito circa 80 milioni nei mini bond. Il fondo Trentino Alto Adige, che ha una struttura di 200 milioni da investire appunto in strumenti finanziari come le cambiali finanziari, i project bond, i mini bond eccetera, continua quindi a crescere. Dall'altro lato abbiamo fatto il primo fondo di mini bond in Italia, il fondo mini bond PMI Italia. Ecco, dobbiamo interromperci perché c'è una pausa della pubblicità, restate con noi e fra poco continuerà la conversazione conversazione a proposito della finanza per le imprese manifatturiere. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Fabbrica 2.4. Bentrovati a Fabbrica 2.4 con il nostro ospite Enrico Marchi, che è presidente di Finint ma anche di Banca Finint. Stavamo facendo un ragionamento a proposito della finanza al servizio delle imprese dell'economia reale e c'era quindi questa proposta di riprodurre nell'economia reale, nei distretti, questa idea di cartolarizzare i mini bond che è stata perseguita con l'operazione Viveracqua Hydrobond, che ha consentito di raccogliere liquidità da destinare a investimenti per un controvalore di ben 300 milioni di euro destinata a 11 società idriche. Ecco, ma nel proseguire la spiegazione che ci stava facendo, io le chiedo, ma poi questa liquidità quanto è costata a tali società? Diciamo che considerando la scadenza finale di 20 anni e una durata media del debito di 11 anni, il tasso inferiore al 4% mi sembra un tasso molto buono. Assolutamente sì. E invece il mini bond quanto costa? Ma il costo del mini bond va intorno al 5%, diciamo, oggi, ed è, riconosco, un costo non basso, però sottolineo il fatto che è un finanziamento a medio termine che si deve sposare con altri strumenti a breve termine e a costo più basso. Da un lato strumenti a breve termine a basso costo, dall'altro finanziamento degli investimenti costo un po' più alto, ma la tranquillità del medio termine. Ecco, ma 5% forse è il costo in termini di tasso di interesse, poi però ci sono i costi di emissione e di strutturazione dell'operazione che, trattandosi di controvalori piuttosto piccoli contenuti, finiscono con l'avere un peso percentuale non piccolo sul totale della somma. Sì, anche questo è vero, anche se dobbiamo dire che un'azienda che emette un mini bond in genere può ammortizzare il costo iniziale che lei, di cui lei parlava, su più operazioni, e quindi noi vediamo per esempio un'azienda con cui abbiamo fatto che è già alla seconda emissione in poco tempo, un'azienda che sta andando molto bene, che sta crescendo, e quindi se vista come un'operazione una tantum fine a se stessa è sicuramente un costo diciamo nel range alto. Se invece la vediamo come un inizio di un percorso che contribuisce da un lato a finanziare e a dare la tranquillità sul medio termine all'impresa, dall'altro a dare anche degli strumenti in termini di controllo di gestione, di reporting all'impresa stessa, che la può aiutare a crescere, allora vediamo che l'interesse cambia completamente. E poi io credo che per un'azienda che ha prospettive di crescita possa essere il preludio per anche, per esempio, un accesso al mercato dei capitali. E certo. Senta, lei sta in un osservatorio formidabile, inoltre anche presidente e amministratore delegato della SAVE, che è una società di aeroporti e infrastrutture che gestisce l'aeroporto di Venezia. Quindi lei lo vede molto bene come sta cambiando il nord-est. Che cosa sta succedendo nell'economia reale e nei distretti del nord-est secondo lei? Guardi, da un lato il nord-est ha sicuramente sofferto, come il resto d'Italia, di un calo del peso del settore manifatturiero sul complesso del prodotto interno lordo. Ha sofferto anche del fatto che l'Italia continua ad essere un ambiente, per così dire, non business friendly. Noi abbiamo la Commissione europea che proprio a dicembre di quest'anno ha messo l'Italia all'ultimo posto come favore di regolazione nei confronti delle imprese. sta soffrendo di un costo delle imposte molto elevato. Pensiamo che il peso delle imposte sul reddito delle imprese oggi è in Italia una media del oltre il 68%, in Germania è il 46%, in Gran Bretagna è il 35%, per citare poi un paese esotico, negli Emirati Arabi è il 14,9%. Certo. Ecco, quindi nonostante tutto questo, però, nonostante tutto questo, nel nord-est penso che abbiamo assistito, come nel resto d'Italia, a una specie di selezione darwiniana, e oggi le imprese che ci sono pronte ad affrontare la ripresa. Vedo una maggior fiducia da parte degli imprenditori, che si traduce, come dicevamo prima, poi nella ripresa di domanda del credito. Vedo un inizio di investimenti, vedo un portafoglio ordini che dà tranquillità agli imprenditori stessi, soprattutto fino ad adesso sono stati favoriti gli imprenditori che esportavano in giro per il mondo. Oggi abbiamo difficoltà, sappiamo, in Cina, però in giro si assiste a una rinnovata fiducia e a un portafoglio ordini da parte delle aziende che è sicuramente migliore di quello che era. Ecco, tra tutte le difficoltà, io so che un suo chiodo fisso è quello delle infrastrutture insufficienti. E quello è uno dei problemi direi non solo del nord-est ma del nostro paese. Infrastrutture, tra l'altro, quando io parlo penso alle infrastrutture, non penso solo alle autostrade, agli aeroporti, ma penso anche alle università, che sono le infrastrutture della vita civile. Ecco, oggi siamo deboli su questo. Oggi, anche se pensiamo alle grandi opere che servono, diciamo che stiamo soffrendo, siamo rimasti indietro, c'è una specie di possiamo dire minimalismo della manutenzione. Ecco, ma quindi il governo dovrebbe darsi una mossa sulle grandi opere? Sulle opere che servono, non penso alle grandi opere. Se lei mi parla dello stretto di Messina, penso che sia meglio mettersi una pietra sopra. Se penso a altre opere, per esempio l'ammodernamento degli aeroporti, come noi stiamo facendo, questo è un tema che serve, perché il traffico aereo è previsto in crescita, perché gli aeroporti servono per le aziende, servono per lo sviluppo del turismo e quindi servono per poi produrre investimenti, perché il circolo virtuoso che si mette in moto col ciclo degli investimenti si ripercuote positivamente su tutto il manifatturiero poi dopo. Certo, ma lei che cosa pensa delle scelte fatte da questo governo in tema di economia, anzi di sviluppo economico in generale? Io penso che è cambiata la marcia, mi sembra, e credo che dobbiamo dare fiducia, perché sicuramente sono state introdotte, su un tema di lavoro, in tema di riduzione di certi sprechi. Per esempio, io quando penso che è stato abolito il CNEL, questo mi dà un po' di soddisfazione. Ma è una cosa morale, perché poi alla fine il CNEL non è che costasse... Sì, ma se stiamo parlando della regolazione dei permessi sindacali, del Jobs Act, ci sono le province stesse, oggi c'è forse uno stop nella spending review, però quando si dice che non sono state abolite le province io non sono d'accordo, perché di fatto con l'abolizione dei consigli provinciali, delle giunte provinciali e la soppressione dei ruoli si è tolto il tappo a un problema che stava dentro la bottiglia, che è questa enorme spesa data dalle province. Certo, ci vorrà un po' di tempo per fare in modo che tutte queste persone che non possono essere messe sulla strada vengano riassorbite o vadano in pensione, però sicuramente è una razionalizzazione dei costi. Ecco, penso che questo sia positivo. Poi credo che i bonus a pioggia sulle aziende, che mi pare che il governo pensava in primo tempo di ridurre, che adesso invece non taglierà, questo sia, penso che sia negativo, perché tutte le grandi agevolazioni sono venere appannaggio di gente che in qualche modo è collegata con le camere di commercio, con le associazioni, che ha manicata. Le imprese che sono sul mercato, che lottano tutti i giorni, magari hanno meno tempo per vedere le agevolazioni che gli offre la camera di commercio, le imprese industriali, cioè le associazioni industriali, eccetera. Ma che cosa che dovrebbe fare questo governo per sostenere le imprese, secondo lei? Diciamo almeno 3-4 cose che sarebbero necessarie. Una prima cosa è ridurre il carico fiscale, questo viene da sé, di quello che ho detto prima. Una seconda cosa è la semplificazione della burocrazia. Quando mi dicevo prima che l'Italia non vive, non è un paese business friendly, questo raggruppa complessivamente, quindi ridurre il peso della burocrazia, fare una politica che per esempio aiuti in qualche modo gli investimenti, agevolare gli investimenti che vengono fatti dalle imprese, e poi sicuramente ridurre la spesa per il costo della politica. Ecco, non mi ha messo tra le priorità. Significa ridurre le imposte. Tra le priorità, però, non ha messo lo sviluppo delle infrastrutture. Non vorrei pensare, visto che. Che agisce per domo sua. Che poi io sono presidente di Save, come diceva lei, ma sicuramente le infrastrutture. Pensiamo a da quanto tempo in Italia non si costruisce un pezzo di ferrovia, sì, a parte diciamo quel tratto dell'alta velocità Milano-Venezia, lì in Piemonte. Ah, quello lì dei Notav, ma stendiamo un velo pietoso. Ecco, diciamo che le ferrovie, per esempio, uno dei punti fondamentali per un salto in avanti, un miglioramento della qualità degli aeroporti in generale, è dato dal collegamento ferroviario che arrivi negli aeroporti, specialmente in quelli intercontinentali. E come arriva l'alta velocità all'aeroporto di Venezia? Stavo dicendo che ne abbiamo parlato con più ministri, ne ho parlato recentemente anche con il ministro Delrio, che mi ha assicurato l'impegno per questo. C'è già un progetto. E lei gli crede? Io sono obbligato a credergli. Vabbè, adesso casomai inviteremo Delrio in trasmissione e gli chiederemo quando lo farà. Ecco, purtroppo bravo. Il tempo è tiranno, vi ringraziamo per l'ascolto, ringraziamo il presidente Enrico Marchi, che speriamo di avere nostro ospite in successive occasioni, e agli ascoltatori dico arrivederci a domani, domenica 4 ottobre.